paramilitare ucciso ha diritto a queste cose. E con la saravamo presa questa campagnola, anzi mi pare ce l'avevano regalata addirittura, non era nemmeno all'asta, ce l'avevano regalata ed era del colore proprio che la usano i carabinieri, quel colore blu, e noi l'avevamo fatta bianca, c'erano cioè lampeggianti sopra, tutto qua, il faro per guardare in lontananza, cioè, si poteva comandare da dentro. Sì. Vai Natali, ci sei ancora? Già ci sono, io già ci sono. Sì, mi ragazzi, altro secondo. Vabbè, non te lo metti in macchina il baracchino. In macchina, se non vado da per macchina di Giulia, cosa è in macchina? Io seguivo piazza Maracchino, si muore la magnetica e via. No, non è messo, ci ho messo il televisore in macchina. Televisore? Sì, ho messo il televisore, vabbè, tanto faccio la notte mi guardo la televisione. Ma di quelli normali oppure di quelli incastrati nella macchina? Castonati. E quindi il muletto è piccolo? E 10 pollici. Lo vedi bene? A voglia. E come antenna cosa usa? Non ne ha, è integrato l'antenna. Ah, bene bene. Ah, cosa ne fai a fare? Ma fammi dare 5 minuti, e cosa mi fa? Ora c'è... ti guarda la televisione, ti guarda il programma e ti passa la serata. Poi ti trovi, non va a nessuno a vedere la televisione. No, che cazzo di troppo. Adesso tu pensi all'esterno o all'interno? Fuori, però abbiamo un ufficetto, però adesso dovremmo mettere un pannello solare, perché non ce n'è corrente ancora. Siamo già più di un mese che bruciamo di zero, ci vuole la corrente che non si può stare qua senza luce e senza termosifone. In pratica siamo quei gabbiotti commentati, capito? E colleghi il cavo a 380 e c'è tutta la corrente, c'è luce, c'è stufa, tutto quanto. Perché a 380 e non a 220? Sono quelli a 380, quei gabbiotti lì, c'hanno doppio vetro. E beh, non te la brucia la roba, se ne metti il televisore te lo brucia. No, cosa brucia? La 380 che parte dal coso del gruppo, la 380, poi quando nel gabbiotto ci sono le spine come che tu sei dentro un appartamento, capito? Non riposo, c'è la spina. Ah, ecco, ho capito, c'è l'entrata a 380 e poi diciamo di suddivisa a 2 piedi. Esatto, c'ha il quadretto dentro e quindi è già te la riduce, capito? Da 380 a 220 te la porta. Ho capito. Infatti nel gabbio saresti meglio, perché almeno dal freddo ti ripari. Ma se cazzo vuoi la carriera nemmeno uno? Ma se non vedo di vita, lascia perdere. Cazzo per la macchina, cazzo per la ghiaccio. Me ne accorgo perché quando io per dire vado a portare il cane la mattina è tutto bagnato. Come dici, pensa lì a Tronco Reale che è tutto aperto. La ghiaccia va. In pratica siamo di fronte a, non di fronte, dietro a cose della prigione. Ho capito. Quindi vedi carcerati. Ma carcerati non è vero, ma vedi tutto illuminato, non è poco luci. Intanto paghiamo lui. Ma luci o... già, è come che fosse il giorno, cazzo li ha usi. Perché se scappa qualcuno devono vederci. Cazzo vedere dalle scappi ahi, se ti andiamo la lione, dalle scappi. E che cazzo non era fuggito da San Sebastiano. Sai legato le coperte c'è sceso. Ma domani sei che ti ha pagato, ma. Ma ogni tutte le lenzuola, ha fatto il nodo, cazzo, si sciude il nodo, si ammazza, io non so come ti fare. E ho messo le lenzuola, ha fatto tutta a nudi, ha preso tutta la lenzuola, le ha messo su un muretto e si è parato. Ecco, tu bricco è fuggito. Ma cosa? Che era l'aria era quando è fuggito? Ed è sceso dal coso della luce, è sceso. Da rubare. L'hanno fatto pure vedere in un film che hanno fatto. Io so che era scappato con la lenzuola, quello comunque è la tattica chiusa, è quella lì, quella delle lenzuola legate. Ma no, era l'aria, era. Hanno salito il muro che era tutto di quei muri vecchi e poi hasta, infatti negli anni di rado mi sono baru di Laruzzi. Come ti è fuggito qui tu anni di rado rubaru di Rurampione. E beh, perché già si poi prendono la lezione e lo fanno anche loro. Infatti, hanno diventato la guardia che è andata in fondo e sono fuggiti da lì. Dal muraglione si sono aggrappati al palo e so farà 10-2 attienza Iran. Ma dice che quelli di banca sono più attimo. E boh, non lo so, ma intanto è difficilissimo uscire da lì, perché è un carcere moderno, non è come era Santo Bastiano. Io Santo Bastiano l'ho girato tutto, ho fatto la fila per girarlo, ho tutto fotografato, ho fatto tutte le fotografie nelle celle, e praticamente tutto mi sono lavattuio, hanno lasciato tutto come quando erano dentro. Tutti i muri disegnati dai carcerati, scrivevano alla Madonna, aiutaci, questo e quell'altro, facevano disegni, ce n'erano che disegnavano anche bene, i muri. Avevo fatto la fila in via Roma per entrare via San Sebastiano, bisognava anche pagare. E figurati, ma io se ricordo che ero stato italiano, dato che non ci sono carceri, adesso che non c'è nessuno, mi viene bene a restaurarlo, bene a farlo come si deve, il carcere, e l'avrei riaperto. Quando... ma Natale, se tu vedi le condizioni proprio disastrose, tutto abbandonato, si vede che è roba vecchia, roba... c'avevano biliardino, c'avevano la sala giochi pure giù, c'era biliardino. Avrei tutto restaurato, a nuovo l'avrei messo, quel carcere, e l'avrei riaperto, anche per quelli che vanno a fare il processo. Cazzo, invece di portare da bancali, li avrei rinchiusi lì e sarebbero andati direttamente al coso, al tribunale, hai capito? Invece a quelli con la pena definitiva li avrei messi a bancali, capito? Quelli di passaggio invece li avrei messi lì, li avrei utilizzato quel carcere, però l'avrei tutto ammodernato, va tu bene. Le ho girate tutte le celle, ho fatto le fotografie, no? Poi ci ha pensato mio nipote, le ho scaricate in una pennina, ci ha preso la pennina mio nipote, mi ha cancellato tutte le fotografie, avevo fatto chilometri perché stavo facendo un tema, le chiese bizantine, ero andato a San Carlo, ero andato a San Gavino, ho fatto l'Urani, ho fatto questo, ho fatto chilometri per fare quel tema lì, perché dovevo fare un concorso. Praticamente mio nipote mi ha cancellato tutto, mi sperato ero andato lì. Siamo andati con un programma che ci aveva Samuele, anzi due programmi, beh, abbiamo trovato i file ma erano tutti, non ci dava quello che c'era all'interno. E non te li faceva leggere. E io che avevo fatto la fila, senza contare i chilometri che ho fatto per fare tutte quelle fotografie. Sì, già lo so, già me l'avevi detto. E purtroppo cosa vuoi? Sì. Per la cui paga. Cosa vuoi fare? Vabbè, Maurizio, è così. Manuele. Picciola. Briciola e gorgucce di mano, cazzo, affittendi, chi so? Paga mia cazzo, tu chi si vede già sassi savona, sempre bagna di sassi se gaccio, e perete di formaggio, vero? Oh, come male? No, già finito a mangiare, lo sto mangiando qualche noce. Già beveva un po' come andare a giocare con carne, che hai il 5 e mezzo a lavorarsi, a lavorare. Torna! Cosa vuol dire? Non ti darò manco Pippo. Riposo venerdì ce l'ho. Ma riposo. Vuol dire riposo. Ma cosa? Perché smorti la mattina, il giorno del riposo. Aiuto. Vabbè dai. Smorti la mattina, quindi se fai fussa sei scindato. Se non è che ti lasciano dormire in giornata. Ma ti sbarra tutto quando è così, ti sbarra tutto, ti lascia un vuoto, io lo so perché notturni ne ho fatto tanti, dove facevo servizio ambulanza ne facevo tanti notturni. E quel giorno dopo mi sentivo tutto slano, mamma mia. Ieri, allora, l'altro ieri ho fatto, adesso dalle 5 e mezza fino alle 2 e mezza, ho smortato alle 2 e mezza, poi l'indomani mattina ho ripreso alle 5 e mezza. Fatti il conto quanto ho dormito io. Allora, l'altro giorno 2 e mezza, fino alle 10 e mezza di notte. Sono arrivato a casa che erano le 11, mi sono fatto la doccia, tutto quanto, mangiato, e cosa ho dormito io, che alle 5 e mezza mi dovevo già rialzare per andare a lavorare domani. Stress. Lascia perdere, ecco lo stress. E qualche altra cosa, non ha troppi, ma. E forse devo entrare già lo San Natalino 9. Devo entrare lì forse, speriamo bene. Dobbiamo fare il colloquio, io ho un altro collega. Sempre con lo stesso lavoro? Sì, sempre, però guardia armata, perché io ho il decreto e ho chiesto come guardia armata sui portavalori. Ma è rischioso, ma non è rischioso, anche se si interra. Ma lì, vedi come si stanno specializzando adesso così questi portavalori. Già lo so. Lì allora due devono. Uno rimane nella. Io l'ho fatto a Milano. Noi stavamo lì dietro dove c'erano i sacchi, dove c'era il cavo, si può dire, là. Lei lì dietro e uno guida. E lo so che è così. E domando io, Dorodoro lo fa quel lavoro. Chi? Dorodoro, lo conosci? E buttava via Verassano lì, grazie a voi. Dodorotto, ma il nome come ti si chiama? Edoardo. E dov'era lui? A Morgato, Vigipo, dov'era? Allora, lui è partito a Oderzo, vicino a Treviso. È stato di diverse società. Prima mettevano i bigliettini sotto le serrande dei negozi e faceva 300 km a notte, faceva Oderzo e Treviso. E poi è entrato la Mondial Pool e guida il furgone blindato, però lavora solo di giorno, capito? Poi fino alle 2 e poi alle 2 se ne va ed è libero. Ah, adesso fa di giorno, non ne fa volantinaggio però. No, adesso ha cambiato proprio. Quel lavoro lì lo faceva con un'altra ditta. Perché volantinaggio lo fa la notte, solo mette il bigliettino attaccato alle serrande dei negozi, deve fare la ronda. Oppure mette gli adesivi, dipende dalla ditta. Vabbè, comunque adesso lui ha detto che sta bene perché lavora di giorno e poi se ne torna a casa, la sera è libero, capito? Prima lavorava di notte e lì adesso il primo periodo gli avevano dato da fare piantoni nelle fabbriche, li mandavano da soli in fabbriche dove fanno braccialetti d'oro, questa roba qua. E lui faceva faceva servizio, ho detto cazzo, una notte c'era il ghiaccio, io dal freddo stavo muovendo, ho chiamato, ho detto mandatemi qualche durazzo perché io non ce la faccio più, cazzo. Dice che c'era il gelo. Non posso immaginare, non posso immaginare, già la giubilato con di freddo sopra Milano, buia, neve, ghiaccio, per carità. E dice non c'è, ma non ha composto per... E hanno mandato il collega, guarda che fortuna che ho avuto, hanno mandato il collega e a lui l'hanno trasferito da un'altra parte dove c'era il collega. E la notte al collega si sono brincati da... cioè si sono messi sul tetto della casa del padrone, si sono messi in tre e sono saltati addosso al collega, era un disarmato, sono entrati, hanno rubato un sacco di roba, l'hanno legato al collega, gli hanno rubato anche la pistola. Vai tu, pensando, non fai niente, da solo non fai nulla, anche se sei armato e cosa, no? Se vai con i tre o quattro non fai nulla, cosa fai? Cazzo di a me, puliti tutto l'arco, chiami in caserma, quando se ne sono andati chiami in caserma, cosa cazzo di fare, ti fai venire nulla. Ma il fatto che ho preso la pistola è grave, la pistola è una cosa grave. Disarmato, gliel'hanno preso, portata via. E quella lì adesso la limano tutta quanta, ne tolgono i numeri. E allora? E se la usano per fare la rapina, per fare queste cose. E lì dice che non ne vuole fare nessuno, proprio perché ci sono albanesi, gli albanesi sono specializzati in queste cose. Fanno duplicati di banco, cioè fanno rapina, fanno di tutto e di più. E gli albanesi, va che sono un po' brutti anche gli albanesi, so. Albanesi, romeni, di tutti i razzi me ne so, va. Un italiano mi so, va, anche albanesi. E lo sai cosa è? Che molta gente è disperata perché non c'ha lavoro e magari e c'è che cavolo ma fa fare soffrire quando posso avere i soldi così veloci. E se l'attesa, se la rischia, capito? Ma loro la riscono se sei sicuro di fare il colpo, se sei sicuro di quello che c'è dentro al blindato. Ma quando fanno queste cose qua, perché c'è sempre qualche tappa dentro, hai capito? E allora, se c'è una guardia giurata che glielo dice, quella che passiamo a quell'ora lì. Una guardia giurata anche un carabiniere che si dice. È normale che sono che vanno al sicuro, non è di andare così alla giga, ma comunque il rischio ce l'hanno sempre, non è che siano cose facili da fare, bisogna avere sangue freddo a fare queste cose. Che cavolo, quei due ragazzi di 15 anni, ho visto cosa hanno fatto, sono scappati a Umbria, li hanno ritrovati e a quanto pare hanno fatto una rapina in un negozio. Ma per carità, ma quelle sono roba. Quelle sono briciole, sono. Sì, ma per dire, a 15 anni cominciano a fare queste cose e poi quando sono grandi cosa diverseranno? Rapinatori di quelli noc. Da ragazzine si nasce. Li hanno scoperti perché lo stesso giorno che sono scomparsi loro hanno fatto la rapina. I carabinieri, la legge è fina, ha congiunto le cose, hanno andato a guardare le telecamere e hanno visto che praticamente quelli che hanno fatto la rapina avevano lo stesso fisico di questi ragazzi, li hanno ripresi da dietro. Il padre dice che non è il modo di camminare del figlio, quando mai l'uomo diceva che era un figliolo, ma... Beh, il padre cerca di tappare sempre il figlio. Comunque, anche il modo di parlare, ha detto che era diverso, che non erano loro, che hanno preso un granchio, questo e quell'altro, invece i clienti stanno continuando a fare indagini, intanto a loro l'hanno messo in una struttura protetta. Non li hanno mandati a casa, li hanno messi in una struttura. Cazzo, ma sei tu viaggia, siamo a dire, ma da tutte le parti se ne sente, adesso rapina da tutte le parti si sente, non dite le rapine sono facendo, ma se stato che è successo, oppure due o tre rapine hanno fatto sui pochi avvaluti. E ora mi pongo pure lui a fare rapine, ma chi rende di più? Sì, l'ho visto in diretta, c'era questo autista che ha fatto il filmato mentre facevano la rapina in continente, hanno incendiato un camion e si è messo a gridare una rapina, una rapina, una rapina, poi c'è tu, i colpi della pistola del mitra, cosa c'aveva? E questo qua è tornato a marcia indietro, era dentro il camion proprio, cioè c'era il camion, poi l'altro camion che hanno messo di traverso, perché erano due camion in fila, uno l'hanno fatto mettere di traverso, gli hanno puntato la pistola, sicuramente l'hanno fatto mettere di traverso per bloccare la strada, e poi gli hanno messo fuoco alla gabbia. Lo fanno per spaventare la gente, di modo che la gente sia terrorizzata e non si muove dalla macchina. Non è visto quel ragazzo che stava scendendo dal furgone e ha detto sali su se non ti sparo, è una rapina che hanno fatto vicino a Sassari, un lugare del mar tranquillo e trova queste cose in mezzo alla strada, vale in mezzo. Sì, gliel'hanno messo in modo che non lo vedessero il camion, che lo vedessero all'ultimo momento, e si è sbattuto per quello il furgone. Vabbè, le bucce mezzo gravide, non c'era posto per scappare, invece i continenti non hanno più, sono riusciti a scappare, sono passati tra il camion guardarlino e ci sono passati lo stesso e sono scappati. E anche qua sono riusciti a fuggire uno, è riuscito a fuggire col furgone blindato. Ma uno di quei due? Un furgone blindato è riuscito a fuggire con una rapina che stavano facendo, no? È riuscito a fare retromarcia e se n'è fuggito. Ha girato il furgone come se fosse una macchina normale, cazzo, e se n'è fuggito. E i rapinatori sono rimasti a bocca asciutta. Solo che se magari ti perseguitano, cazzo, di mitraglieri, è sempre un rischio. E una commessa da noi, sono entrati, c'era il cortile, io dicevo sempre chiudete il cancello, perché il cortile poi dava sulla porta della salumeria, e la porta della salumeria era sempre aperta per girare l'aria. Quindi cosa ha fatto questo? È entrato nel cancello, l'ha trovato aperto, è entrato alla porta della salumeria, ha puntato il coltello alla salumiera, l'ha portata alla cassa e alla cassiera ha detto apri il cassetto, quella si è cagata sotto, non riusciva a trovare l'operatore. Apri il cassetto, se non ti sparo, cioè ma la pistola da una parte e il coltello dall'altra. Quando io sono andato per ritirare gli incassi, cazzo, erano tutti due bravi, ce n'è scappato qui senza assurdi, perché quella lì si è fatta rossa, non riusciva più ad accasso. Chiura, poverina, ci sarà sta cagata sotto. Si è pappinata, ha detto cazzo la cacera, chissà, la quasi a 30 anni, no, un giorno, non era di quelle giovani, era di quelle che stava per andare in pensione. C'è cagata sotto, non riusciva a aprire l'operatore, non riusciva a capire dove doveva digitare, perché il panico mi gli ha preso e non comprendeva nulla. Sì, infatti, manco mai il rapinatore se ne è avvisato e se ne è fuggito. Quando sono andato al piano di casa erano tutte e due rosse in faccia, ciao, pensavo che fossi tu, perché lo facevo scherzare, no? Per fargli capire che potevano entrare, allora ci andavo da dietro, mani in alto, questa è una rapina, e dai già, non farmi questi scherzi, mi diceva, no? Beh, alla fine mi è arrivato a vivo, dice pensavo che fossi tu e ho detto smettila Gianni, io non fare così. Invece era il rapinatore a vivo, ecco. Ehi, era il rapinatore, coltello da una parte e la pistola dall'altra. La macchina è morta, fuori con lo sportello aperto, infatti gli hanno preso il numero di targa, ma questo qui aveva fatto diverse rapine con questa macchina, non l'hanno mai beccato. Tutto solo faceva, questa macchina è morto, bisognava spegnere il motore e staccare le chiavi, quindi la liscia non le dice a mica la macchina. Solo quando le cucci si incassano e sparano a tutti e diventano scemi. Infatti, peggio è. Ma comunque io gliel'avevo detto, non facevo come di conto, entravo dal cancello del cortile. sono venuti, magari stavo pulendo, perché andavo quando stavano più dei, no, per c'era lì in casa. E praticamente andavo da dietro, ma di alto questa era la prima volta si è asciugata. Poi ho detto, non so perché ve l'ho fatto, perché lasciate il cancello aperto, non lasciate mai il cancello aperto, perché possono farlo davvero, qui che mi è arrivato. Infatti, non c'è l'uria da rato. C'avevi ragione, già. Io dico, non ha ne più da casa invece di cancello. C'era uno che ci portava i tramezzini, no, lasciava sempre il furgone moto, radio accesa, sportello spalancato. Io gli ho detto, adesso ma tu come ti vai a fidarti a lasciare il furgone così? E praticamente è andato in via mare a consegnare, gli hanno rubato il furgone con tutti i tramezzini sopra, e il principale era licenziato. Io al grillo. Licenziato in tronco. Come sì, la colpa è sua, perché lui se lo chiudeva, io il furgone lo chiudevo sempre, quando scaricavo chiudevo sempre gli sportini, dico, quando si entrava in giù il furgone. Quando io stavo scaricando, che andavo dentro a portare la merce, e stiamo andando, che ore sono, le 7:30? Le 8:25 sono, c'ha ragione, sei in ritardo, l'ho sentito anch'io a Taito. Sì, ma fatto, e quindi aiuto, non abbiamo, è troppo tolle. Vabbè, ciao Manuele, ciao Natalino, dai io vado, che devo portare a lui, se no mi sgrida. Infatti, tagliamo un niente, coraretto. Che dopo che ti vuole la mia, pure la mia, ma Manu, ci sei? Ma Manuele si è avviato. Ciao, ciao, ci sentiamo là. Ciao Gianni.